attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i sogni più stretti. Dio, ma come si fa a trovare il coraggio di andare anche quando vorresti restare? Dimmi come si fa a rialzarsi anche quando fa male e continuare ad allacciarsi le scarpe e ripartire da zero, a ricordare che niente, nessuno può rubarti il futuro. È importante, tu sei importante. E ricordati di te quando il mondo ti dimentica, lascia sempre una traccia su un cuore che passa, e comunque tutto resta, anche se non te ne accorgi. Puoi trovarli negli occhi, quei ricordi mai scritti. Dio, ma come si fa a trovare il coraggio di andare anche quando vorresti restare? Dimmi come si fa a rialzarsi anche quando fa male e continuare ad allacciarsi le scarpe e ripartire da zero, a ricordare che niente, nessuno può rubarti il futuro. È importante. Le scarpe e ripartire da zero, a ricordare che niente, nessuno può rubarti il futuro.